Altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Siamo un popolo di eroi e di grandi inventori e discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! 16:08, questa è Radio Onda Rossa, all'ora di buco lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. 06 49 17 50 è il telefono a cui potete contattarci in diretta. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me. Ora di buco.noblogs.org, il nostro blog aggiornatissimo con tutte le vecchie puntate da riascoltare, anche con un po' di documenti da leggere. Ora di buco @ondarossa.info è la mail a cui potete scriverci. È la promozione, e poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare. Firma il contratto. Ma vi ricordiamo anche il conto corrente di questa radio, che è il 61 80 40 01, che va intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, per ricordarvi che questa radio non campa d'aria, ma nemmeno di pubblicità, non ha padrini, padroni, partiti, ma campa con il contributo di tutte e tutti noi. E quindi, se volete contribuire, venite a trovarci o contribuite col conto corrente postale o andate sul sito e ondarossa.info, alla voce sostieni, troverete tutte le modalità. Iniziamo con questa trasmissione, sono le 16:10 e quindi oggi, insomma, la nostra sigla non l'ascoltiamo per intero, perché abbiamo anche un ospite di cui siamo molto felici, insomma siamo felici di ospitarla qua. Ciao. Ciao, ciao a tutti e tutte. E la nostra ospite, come dire, ci permetterà di parlare di un'altra delle figure di lavoratori e lavoratrici che sono dentro gli istituti scolastici, ma che, non essendo dipendenti del Ministero dell'Istruzione, come dire, i loro profili sfuggono di più, insomma, come dire, la strisciante privatizzazione, io la butto così, della scuola pubblica fa sì che soggetti che non sono appunto dipendenti del Ministero, sempre più spesso e sempre con modalità diverse, come dire, entrano dentro le scuole. Ma insomma, non andiamo troppo avanti, e intanto appunto la nostra ospite ci può raccontare che lavoro fa. Allora, ciao, sono un assistente all'integrazione, che si può chiamare a volte AIC, assistente educativo culturale, o assistente all'autonomia e alla comunicazione. Fondamentalmente siamo quelle figure che lavorano, appunto, come dicevi tu, nella scuola, ma non siamo assolutamente dipendenti né del MIUR, appunto, né tantomeno della scuola. Che facciamo? Lavoriamo appunto a scuola, assistiamo i ragazzi con disabilità. In particolare i ragazzi, diciamo, in stato di disabilità ai sensi della 104, perché noi non seguiamo né DSA, ragazzi con disturbi dell'apprendimento, né diciamo borderline, no? Ragazzi con disturbi della personalità. Quindi seguiamo questi ragazzi nelle ore scolastiche, nelle ore diciamo laboratoriali e didattiche, e in particolare nel mio caso negli istituti professionali, quindi scuole secondarie di secondo grado. Sì, e li seguite, che significa? Ok, dunque innanzitutto diciamo il rapporto è uno a uno, quindi chiaramente noi non stiamo sulla classe ma appunto lavoriamo direttamente col ragazzo o con la ragazza, e, significa stare in classe per esempio e quindi aiutarli nei processi di apprendimento, nei processi di socializzazione, di integrazione o attraverso anche un aiuto proprio concreto nella, diciamo, nel seguire la lezione. A volte si tratta anche di semplificare il programma, oppure, in particolare nel mio caso, perché lavoro in un istituto professionale, seguirli anche nell'aspetto laboratoriale. Ci sono quindi dei laboratori tecnici, dove chiaramente è richiesta da parte loro, diciamo, anche una, insomma, una, diciamo, il doversi muovere, il dover usare degli utensili particolari. E quindi le assistiamo anche in questo caso, quindi insomma li aiutiamo in qualche modo nello sfruttare al meglio le loro abilità. Scusate, mi ero persa con i cursori della radio. E tu specificavi in un rapporto uno a uno. Sì. Perché invece insomma esistono altre figure nella scuola che non sono in un rapporto uno a uno e che sono i docenti di sostegno. Esattamente, sì. Quindi noi appunto siamo solo sul ragazzo perché i docenti di sostegno stanno su tutta la classe, cioè seguono in particolare i ragazzi, le ragazze in situazioni di handicap a loro assegnati, ma sono di sostegno a tutta la classe, quindi sono lì in classe in co-docenza e appunto danno un aiuto a tutta la classe. Noi infatti siamo presenti in classe quando non è presente l'insegnante di sostegno. Sempre quando c'è comunque un curricolare, anzi siamo obbligati a stare sempre in classe quando c'è anche un curricolare. Cioè un insegnante curricolare. Un insegnante curricolare, ma mai insieme all'insegnante di sostegno, perché noi diciamo copriamo tutti i buchi esistenti nella scuola, buchi appunto ai quali non si riesce a stare dietro, il numero diciamo degli insegnanti di sostegno previsti non riesce appunto a coprire. E però avete delle competenze diverse rispetto all'insegnante di sostegno, cioè come è ripartito il carico del vostro lavoro rispetto a quello dell'insegnante di sostegno? Dunque, diciamo da un punto di vista proprio di nostre diciamo, competenze all'interno della scuola, noi siamo esonerati dalla diciamo, compilazione di registri, presenza a consigli di classe, mentre diciamo, siamo tenuti a essere presenti durante i GLH, no? I gruppi di lavoro handicap che si tengono appunto puntualmente e periodicamente a scuola. Dall'altra diciamo noi chiaramente non abbiamo per esempio nemmeno un'ora di buco o un'ora a disposizione, quindi le nostre ore decise spalmate per la settimana sono assolutamente effettive. Ma come dire, per capire meglio, sì, no, questa questione, perché nel senso una critica che io stessa ho sentito fare è ma vedi c'è lo spreco nella scuola pubblica, perché addirittura sull'handicap, cioè diciamo per dare un servizio ai ragazzi e alle ragazze che hanno un handicap ci sono tre figure diverse e questo si capisce che è uno spreco. Tre figure diverse perché c'è il docente, l'assistente e dovrebbe esserci l'operatore e l'operatrice che poi non c'è sempre. Allora, se tu intendi diciamo l'operatore diciamo sociosanitario, forse intendi qualcosa, sì, del genere. Sì, cioè quello diciamo la figura che dovrebbe seguire, essere competente rispetto all'assistenza di base. Dunque, allora la nostra figura, che come dicevi tu all'inizio è effettivamente ancora abbastanza ambigua e lo è spesso anche per noi, non ha competenze di questo tipo, cioè non dovrebbe aiutare diciamo lo studente, la studentessa in situazione di handicap per quanto riguarda appunto l'assistenza di base, cioè nel pratico portarli in bagno, aiutarli a cambiarsi eccetera eccetera. Per questo in teoria ci sono delle figure che sono e si possono ricercare facilmente nel personale ATA, sono i collaboratori scolastici con profilo aggiuntivo, cioè sono in realtà delle queste figure appunto di collaboratori che percepiscono assolutamente non so quanto, ma un tot in più, e sono appunto, hanno appunto la, il, diciamo, il dovere di accompagnare studenti e studentesse in situazioni di handicap in bagno o comunque in tutte le, diciamo, le situazioni che riguardano l'assistenza di base. Chiaramente questo non avviene, soprattutto spesso non si sa, e quindi l'assistente all'integrazione o AC, insomma, che dir si voglia, lo fa, diciamo, quotidianamente, insomma, senza, e devo dire poi alla fine senza problemi, però questo è. Senti, prima magari di fermarci per una prima pausa musicale, io ti volevo chiedere, ci racconti tu cosa fai a scuola per capire ancora meglio, cioè concretamente una tua mattinata, come si articola? Sì, allora dunque io ho circa 4-5 più o meno, sì, studenti e studentesse che seguo in situazioni di handicap. Abbiamo chiaramente ragazzi down, autistici o con vari ritardi cognitivi, medi, lievi, gravi, insomma, quello che c'è. E attacco spesso, diciamo, io faccio poi in particolare 6 ore al giorno, quindi ho diverse classi e passo spesso da una classe all'altra, ho 2 ore con un ragazzo, un altro 2 ore con un altro, poi ho 3 ore magari di laboratorio e così via fino alla fine della giornata. E quindi passo da ore di matematica, italiano, a laboratori di cucina, all'ora di educazione fisica e così via. Quindi diciamo dove serve, servo a tappare tutti i buchi dove appunto non, in quelle ore dove l'insegnante di sostegno non c'è o non arriva o anche in qualche modo non si sente, diciamo, anche magari addetto, cioè magari nei laboratori tecnici è molto più facile che venga scelta la presenza dell'assistente che non quella dell'insegnante di sostegno, che segue soprattutto la parte didattica, perché noi anche per quanto riguarda, diciamo, le ore proprio in classe, per quanto noi facciamo comunque didattica, però seguiamo comunque diciamo un progetto didattico generale sul ragazzo, sulla ragazza, che ha comunque già scelto, insomma, l'insegnante di sostegno col quale noi chiaramente ci relazioniamo, insomma, più o meno quotidianamente. Quindi voi vi relazionate in sostanza di fatto con l'insegnante di sostegno e poi con l'insegnante curricolare che volta, sì, per volta trovate in classe, però sì, col consiglio di classe in buona sostanza non avete nessun tipo di rapporti. No, il GLH è l'unico momento è, diciamo, l'unico di raccordo tra tutte le figure, dove il consiglio di classe è rappresentato dal coordinatore di classe sostanzialmente. Sì, coordinatore, i vari docenti che vogliono chiaramente essere, sì, essere, sì, presenti, sì, insegnanti di sostegno, psicologi, eccetera eccetera, insomma tutte le figure che poi oltre che extra in ambito extrascolastico seguono lo studente o la studentessa in situazione di handicap. GLH, lo ricordiamo ancora una volta, sì, è il gruppo di lavoro sul sostegno che si riunisce un paio di volte l'anno, se non sbaglio. Sì, non di più, difficile. Quindi come dire, cominciamo a entrare anche nelle parti un pochino più critiche di questo ruolo. Immagino che non sia facilissimo per voi entrare in un contatto, come dire, costruttivo con gli insegnanti sulle materie, insomma, perché li vedete in cattedra, non avete momenti per confrontarvi. Sì, diciamo che poi in generale la nostra è una figura un po' particolare, perché appunto viene, ed è così, non è interna alla scuola, e quindi anche da chi invece è interno alla scuola viene percepita in un modo un po' strano e non si capisce bene anche come relazionarsi con noi. E diciamo che il rapporto anche con i docenti si costruisce, se hai tempo, nel tempo. Io sto nella stessa scuola da molti anni e quindi questo mi ha permesso poi in qualche modo di mettere su, insomma, delle relazioni poi alla fine anche abbastanza proficue, che però appunto hanno avuto bisogno di tempo. Probabilmente se fossi stata una docente sarei riuscita a interlacciare molto più facilmente, insomma, delle relazioni anche dirette con docenti, per quanto riguarda i casi chiaramente presi in esame, insomma, degli studenti. Quindi quante ore fai tu? Hai detto che fai 6 ore al giorno? Io ne faccio 30 settimanali, 30 effettive. Ah, ok. Mi viene di confrontarle con invece le 18 forse ore settimanali dell'insegnante di sostegno, sì, che peraltro può avere anche diversi alunni e alunne da seguire, quindi sì. Perché è necessaria questa figura? Perché magari un ragazzo o una ragazza con handicap, comunque disabili, sono coperti, diciamo così, soltanto 6 ore, 9 ore, a volte 12 ore dall'insegnante di sostegno, sulle sì. 30 ore settimanali, certo, di studio. Quindi certo. Per chi ci ascolta è bene sapere che un ragazzo o una ragazza che hanno bisogno di questo supporto possono avere massimo 18 ore quando va proprio bene, sì, quando, esatto, quando in realtà significa che è grave la sì, situazione, molto grave, oppure la metà. Un insegnante di sostegno, quindi dipendente dal ministero e che segue tutta quella trafila accanto e nella classe, e il resto delle ore o rimane senza nessuno e quindi deve rimanere in classe e la gestione tocca all'insegnante di curricolare, oppure ha una figura come quella della nostra ospite. Sì, insomma, noi costiamo meno comunque, ecco. E questo volevamo arrivare a dire, appunto. Esatto. Perché mi sembra che lavoratori, lavoratrici che hanno il tuo inquadramento aumentano di numero, mentre sì, diminuiscono gli insegnanti di sostegno. Sì, sì, sì, questo fa parte proprio, insomma, di un progetto, secondo me, insomma, pensato. Sì, la nostra figura fa quello, costa meno, è, insomma, sfruttata di più, ha anche meno competenze, perché questo va anche detto in qualche modo. Cioè, l'assistente viene chiesto fondamentalmente, e questo è vero, ha oggi un diploma di scuola secondaria di secondo grado e una competenza e competenze, diciamo, in materia, che però non sono in realtà poi alla fine specificate. Questo è da dire. Poi è chiaro che chiunque poi si avvicina a questo lavoro, e soprattutto se continua a farlo nel tempo, chiaramente significa che per forza di cose sì, un po' si specializza e lo fa in modo autonomo, anche a proprie spese a volte, e comunque in qualche modo si fa una sorta di selezione naturale, perché poi è un lavoro abbastanza duro, sottopagato, quindi alla fine, insomma, chi lo fa perché veramente lo vuole fare. Io farei una pausa musicale e poi magari passiamo anche agli aspetti contrattuali, direi, di questa figura, insomma. Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolverete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare i salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi con gli anfibi sulle facce disarmate, presi a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi che meritereste d'essere estirpati come lava l'erba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. siete stato voi. Voi che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi, che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi confratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate Pio. E ciascuno di voi implicato in ogni sorta di reato fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io. Non sono stato io. Non sono stato io. 16:29, torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa, all'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola. Stiamo parlando qui in studio con un'assistente che è venuta a trovarci, poi avremo anche una corrispondenza telefonica per parlare invece di chi svolge questo ruolo alla materna e alla primaria, ma prima insomma di passare alla corrispondenza vorremmo capire meglio chi ti paga, cioè non ti paga il Ministero dell'Istruzione e quindi... Certo. Dunque, allora, questo servizio in particolare è fornito dalla provincia. Quindi funziona che la scuola che ha bisogno di questo servizio, diciamo, integrativo, fa richiesta alla provincia entro il giugno, diciamo, dell'anno per settembre, insomma. E quindi c'è una compilazione di un modulo e si inviano certificati, diagnosi, schede individualizzate dei ragazzi destinatari, dei ragazzi insomma in situazione di handicap, e si richiede un tot ore. La provincia quasi sempre insomma accorda il finanziamento, e che poi in genere è sempre un po' ridotto, si spara sempre un po' di più e la provincia ti dà sempre un po' i progetti meno. funzionano così e a questo punto sta alla scuola, diciamo, gestire questo questo finanziamento, e lo può fare in due modi: o assumendo direttamente il personale secondo la scelta della scuola, con un bando, cioè nel primo caso è la chiamata diretta, quindi si assume tutta, diciamo, gli oneri e gli onori della contrattazione diretta con l'assistente prescelto, altrimenti si affida, e questa è la maggioranza dei casi, a cooperative o enti comunque che gestiscono questo servizio. Diciamo, la prima opzione è quella che non viene utilizzata quasi mai, e spesso è nemmeno gli assistenti stessi conoscono questa possibilità, cioè la scuola... Quelle cooperative? No, diciamo la scuola quasi sempre di default appunto richiede attraverso un bando, ed è qui il bando, diciamo, qui entra in ballo il bando, chiede appunto a enti, associazioni o cooperative di gestire questo monte ore finanziato dalla provincia. Quindi scatta appunto il bando, al quale partecipa una serie di cooperative, e per una serie di criteri poi appunto viene scelta la cooperativa del caso. La provincia finanzia per, se non sbaglio, 33 settimane all'anno il servizio proprio di assistenza, cosiddetta specialistica, e finanzia 19, circa poco meno o poco più 19 euro l'ora ad assistente, compresa lordi ovviamente, cioè in toto, da qui ci va tolto tutti gli oneri fiscali eccetera, e diciamo che il lavoratore medio di una cooperativa prende, se gli va bene, molto bene, tra le 8 e le 9 euro l'ora, a fronte delle 19 erogate dalla provincia. Dico in media, chiaramente, ma anche per esperienza personale, perché non so, poi ci sono tante cooperative e tante. E ovviamente se qualcuno vuole raccontarci la sua esperienza lo può fare allo 06 49 17 50, ma il fatto che tu specifichi 8-9 euro l'ora significa che siete pagati a ore. Sì, ebbene sì. Cioè se tu non vai a scuola non ti pagano. Ah no, certo che no. sì, non è, diciamo, in genere il contratto più tipico, diciamo, utilizzato è quello comunque a progetto, che comunque non prevede nessun tipo, insomma, di tutela da questo punto di vista rispetto a ferie, malattie, eccetera. Sì, assolutamente. Quindi conviene stare in salute, sempre bene, in forma. E rispetto alla continuità e alla precarietà, come siete messi? Allora, il contratto inizia in genere, se tutto va bene, insomma, con l'iniziare dell'anno scolastico, comunque da settembre a giugno, più o meno. Quindi innanzitutto tutti i mesi chiaramente di estivi, quelli che coincidono appunto con la chiusura delle scuole, non sono chiaramente pagati. Quindi il contratto appunto è settembre-giugno. Dopodiché la continuità, diciamo, anno per anno del nostro lavoro è data da una serie di fattori, anche da, per esempio, dal finanziamento, anzi soprattutto dall'erogazione del finanziamento della provincia, che avviene appunto sempre che segue la richiesta della scuola. Quindi a seconda, no, chiaramente anche del numero di iscritti in situazioni di handicap, quanti eccetera. A seconda di questo noi chiaramente lavoriamo o non lavoriamo, oppure lavoriamo più o lavoriamo meno. Non c'è mai una continuità da questo punto di vista. Sì, quindi praticamente voi avete la continuità nella misura in cui la cooperativa decida di affidarsi a voi, ancor prima a monte, nel momento in cui la scuola fa la richiesta in rapporto al numero di iscritti che ha, e lavorate comunque tassativamente da settembre a giugno, non avete nessuna possibilità di lavorare nel corso dei mesi estivi, perché non ci sono attività didattiche, non avete evidentemente, per la tipologia del contratto, ferie retribuite, e se vi ammalate non venite pagati. Esatto. Poi c'è anche un monte del monte, cioè quanto la provincia decide di erogare su questi progetti, perché per quanto ne so io, insomma, a seconda poi anche, credo anche di come si comportano le cooperative, perché la provincia non dà mai a bando, non dà mai, negli ultimi anni non ha mai dato i soldi da settembre a giugno, li ha dati in due tranche, e quindi ci sono lavoratori e lavoratrici che a gennaio non sapevano se il giorno dopo avrebbero lavorato. Sì, spesso accade così. Io poi attualmente non lavoro proprio più in una cooperativa, però ho lavorato per tanti anni, e sì, succede quasi sempre così, ed è tutto questo appunto dipende appunto da questo. Quindi diciamo c'è una prima tranche anche di pagamento proprio, che arriva, diciamo, in genere a gennaio, e ce n'è un'altra che può arrivare addirittura a giugno. E noi diciamo che dipendiamo dalla provincia, a quanto ne so io siamo anche abbastanza fortunati, perché so che poi diciamo gli assistenti che dipendono da finanziamenti comunali, ma poi forse ci dirà meglio l'intervento, stanno messi ancora peggio. No, fatto due conti così, visto che c'è una laurea, c'è una laurea da spendere. Quindi nella migliore delle situazioni, quindi diciamo 30 ore settimanali per le 33 settimane previste dalla provincia, se uno non si ammala mai, se ci sta sempre eccetera eccetera, si va dalle 1000 a 1200 euro nette per 8 mesi e finisce qui, diciamo nella migliore delle situazioni. Nella migliore, sì. Okay. Sì, poi guarda, nel mio caso io adesso sto con un'associazione, diciamo, di assistenti, quindi le cose vanno appena un po' meglio, perché chiaramente la cooperativa prendeva molto di più. Chiaramente adesso invece, insomma, riusciamo a usare meglio, diciamo, quelle 19 euro della provincia. Sì, voglio dire, globalmente forse si può fare un ragionamento anche sulla scia di quanto si diceva prima, no? Cioè come la scuola pubblica fraziona e decide di appaltare la gestione di ragazzi, ricordiamolo, che sono certificati, quindi che hanno disabilità gravi, perché c'è prima di questo e, diciamo, no, anzi dopo. Ma ugualmente un capitolo importante di ragazzi che hanno certificazioni di tipo diverso, i dislessici, piuttosto che quelli che ricadono sotto la grande egida dei bisogni educativi speciali, che in precedenza, fino a qualche anno fa, erano più o meno a carico ancora degli insegnanti di sostegno, soprattutto i dislessici, e che sono stati invece scorporati e che vanno a carico dei consigli di classe e degli insegnanti curricolari in relazione alle diverse materie. E quindi sull'area del sostegno è stato fatto questo taglio. Dopodiché è evidente che gli insegnanti di sostegno, alcuni dei quali, diversi dei quali precari comunque, e si parla di immissione in ruolo e così via, però non sono in grado in assoluto di coprire i bisogni di ragazzi certificati che frequentano le scuole italiane, e si ricorre a quello che è stato chiamato, che si è detto prima, insomma, una forma di privatizzazione per certi versi, ma soprattutto una forma di precarizzazione che porta le persone a lavorare, diciamo, in una condizione, è vero, di precarietà e di sottoimpiego a livello di retribuzione complessivamente, insomma. Detto questo, insomma, appurato ci sembra di poter dire che appunto anche sull'area del sostegno, nonostante la carrozza ormai quasi ex ministra abbia strombazzato un grande impegno del ministero su questo, ma di fatto negli ultimi anni c'è stato un taglio notevole di investimento economico, insomma. Sì, sì, notevolissimo di investimento economico, ed evidentemente notevolissimo anche proprio, credo, in termini di monteore di cattedra, sostanzialmente, perché appunto diverse competenze che erano nell'area del sostegno sono state tagliate, e quindi è chiaro questo. Facciamo un'altra breve pausa musicale e poi così, insomma, allarghiamo il discorso anche alle materne e alle primarie. Mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese e poi mi dimetto. Tanto il mio lavoro inutile, diciamo futile, essenzialmente rimovibile, sostituibile, regolarmente ricattabile, il mio lavoro è bello come un calcio all'inguine dato da un toro. Il mio lavoro è roba piccola, fatta di plastica, che piano piano mi modifica, mi ruba l'anima, dice lavoro rende nobili, non so, può darsi, sicuramente rende liberi di suicidarsi. E io mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese, poi mi dimetto. Precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. Precario il mondo, non è perenne il ghiaccio e si sta sciogliendo, non è perenne l'aria e si sta esaurendo, ed indeterminato c'è solo il quando. Precario il mondo, ma sembra ancora più precario questo stivale che sta affondando dentro un cumulo di borghesi. via, e quelli che l'hanno capito vedi vanno via. E invece tu non l'hai capito, tu non l'hai capito, e stringi i denti dietro un tavolo dentro un ufficio, senza nemmeno avere il tempo di guardare fuori. Così non vedi che già cambiano tutti i colori, e intorno a te la gente si agita, si muove sempre. Qualcuno grida una protesta che nessuno sente. Non c'è un futuro da difendere, solo il presente. E anche di quello di salvabile c'è poco o niente. Amore mio, non ci resisto, io non ci resisto. Vorrei convincerti a raggiungerti, ma non insisto. Tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto. Io invece ho smesso, devo andare, grazie di tutto. Precario il mondo, precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando. E allora il tempo si fermerà. Chi si stava amando potrà amarsi per sempre, e allora il tempo si fermerà improvvisamente, e chi si stava odiando dovrà odiarsi per sempre. Che bella faccia, ma che bella faccia, recitamelo voi, è possibile che non vi piaccia. Sorriso inconfondibile da guancia a guancia, e quello sguardo irresistibile da guardia caccia. Mamma che bella faccia, ma che bella faccia, per chi gli accanto inevitabile la figuraccia. E com'è bella quando si agita, quando si spraccia, quando sposta la bocca e dice qualche parolaccia. Che bella dente, ma che bella dente, ma così perfetta e lucida che pare finta. Cura del modo incepibile, così distinta, pure la foto dico guarda la para di rin. Amore mio, non ci resisto, io non ci resisto, vorrei convincerti a raggiungermi ma non insisto. Tu riesci ancora a non vedere solo il lato brutto, io invece ho smesso e devo andare, grazie di tutto. Interrompiamo con un pochino d'anticipo Precario è il mondo di Daniele Silvestri e Rais. Dovremmo avere in corrispondenza telefonica un'altra lavoratrice. Pronto, ci senti? Sì, pronto. Ciao a tutti che siete in radio. Ciao. E ciao. Stavamo appunto dicendo che con te avremmo parlato invece di materne e primarie. Sì. Cioè ci vuoi raccontare insomma chi sei, per cosa lavora la tua cooperativa, e poi insomma arriveremo a parlare del percorso anche di lotta insomma che state intraprendendo. Sì, insomma il lavoro insomma nelle materne e nelle elementari si svolge abbastanza in modo simile, come ha detto la collega delle superiori. L'unica differenza è che gli appalti, che vengono di fatti dal comune di Roma in special modo, e che vengono poi fatti nei vari municipi, quindi insomma ci sono anche delle differenze fra municipio e municipio dello stesso territorio di Roma. Nel territorio dove lavoro io le ore hanno, cioè il servizio ha subito dei tagli negli ultimi anni, e in special modo in questo anno scolastico, veramente forti. Oramai ci sono pacchetti, da noi i pacchetti di 30 ore sull'utenza sono completamente spariti, cioè il pacchetto più alto che si può avere sono 24 ore, ma cioè 24 ore a bambino o a bambina, stai dicendo? 24 ore no, per il lavoratore, poi queste 24 ore sono frazionate perché ogni operatore all'interno della scuola lavora almeno su due o tre bambini all'interno di una stessa scuola, quindi anche noi insomma dobbiamo un po' girare fra le varie classi e stare lì dove poi non c'è l'insegnante di sostegno, insomma anche noi un po' tappare i vari buchi per permettere poi agli utenti di stare almeno quelle 5-6 ore a scuola. perché poi insomma per i ragazzi, per i disabili, per i bambini è anche molto difficile poi stare a scuola, proprio perché le ore destinate per il loro sostegno mano a mano vanno sempre diminuendo con i tagli, no? Che si stanno facendo alle politiche sociali nelle scuole. Quindi è un lavoro, sì, che queste ore, se uno magari, se è un operatore all'interno di una scuola, se è una IC all'interno di una scuola, ha un monte ore di 24 ore a settimana, queste ore poi vanno divise fra i 3-4 bambini che segue, quindi è molto difficile lavorare così, e soprattutto è un lavoro che non è più di qualità, e questa è la cosa che dispiace più da chi ci lavora da diverso tempo, no? Perché comunque si offre un servizio sempre più scadente, e diventato oramai un servizio di mera assistenza di base, perché noi poi i ragazzi gravi anche li cambiamo, insomma gli facciamo proprio l'assistenza di base, quindi c'è anche questo, e magari in quell'ora e mezza che tu vai da uno dei 3-4 bambini che hai, li devi fare un po' tutto, insomma, viene meno quindi il rapporto con la classe, l'integrazione, che era, no, lo spirito di questo servizio, e vengono meno tante cose, è diventato molto difficile lavorare in questo servizio, devo dire. Senti, oltre alla difficoltà, per quanto riguarda proprio la paga di chi fa il tuo lavoro, ti torna 8-9 euro l'ora? La paga è quella che è, come ha detto l'altra collega, praticamente anche sempre sui 19 euro l'ora, però poi al lavoratore ovviamente arrivano quelle 8-9 euro, perché comunque poi c'è tutto il lavoro della gestione, perché io lavoro in una cooperativa, e una cooperativa sociale poi ha tutto un costo di gestione, e nella cifra oraria è anche previsto tutto il costo di gestione di una cooperativa. Quindi se il municipio dà alla cooperativa 19 euro l'ora per ogni ora di lavoro nostro, a noi lavoratori che siamo a dirette con l'utenza arriva praticamente la metà, perché tutto il resto va nella gestione di una cooperativa. E qui forse possiamo arrivare anche a iniziare a parlare di questo percorso che state iniziando. Sì, noi stiamo, io e altri operatori, stiamo iniziando questo percorso, insomma questo percorso lo stiamo facendo già da qualche anno, però adesso in special modo stiamo iniziando un percorso con il COBAS cooperativo, con il COBAS della scuola, perché vogliamo fare un'assemblea pubblica aperta, insomma, a tutti, soprattutto a chi ci lavora in questo settore, e anche ai genitori dei ragazzi che assistiamo, perché proprio per prendere coscienza, far prendere coscienza soprattutto ai lavoratori, perché poi i genitori ne hanno ben coscienza di come sta funzionando questo servizio, perché possono portare, come dicevo prima, sempre di meno i loro figli a scuola, e questo gli sta cominciando a creare veramente dei grandi problemi. E però insomma quello che noi volevamo sollecitare era soprattutto, ecco, che i lavoratori comincino a prendere parola su il lavoro che svolgono, sull'importanza del lavoro che svolgono, e su come questo lavoro viene comunque gestito sia dagli enti locali, i bandi, ma anche dalle cooperative stesse, perché poi le cooperative stesse comunque precarizzano, fanno contratti a tempo determinato, ti fanno contratti a progetto, quindi non c'è continuità sul lavoro, perché se un operatore lo prendi solo per un anno scolastico, l'anno dopo il ragazzo che ha seguito un operatore se ne ritrova un altro, insomma veramente questo servizio è gestito malissimo, a mio parere, che lo seguo da qualche tempo, insomma. Mi sembra anche molto interessante questa cosa di iniziare un percorso con i COBAS a scuola, sì, nel senso di unire quindi lavoratori e lavoratrici, sì, che contrattualmente hanno inquadramenti molto diversi, perché normalmente, sì, insomma, certo, i sindacati della scuola, sì, si occupano dei dipendenti del MIUR, e le cooperative rimangono, sì, completamente fuori. Sì, noi siamo dipendenti di privati, noi siamo il privato, quindi anche se è privato sociale, ma è sempre privato, quindi ci sono queste differenze, no? Poi prima c'erano gli AEC comunali, proprio del comune di Roma, adesso queste figure sono completamente sparite, è tutto appaltato a cooperative esterne, che poi, cioè, al comune costano anche di più di quanto possa, no, costare un lavoratore internalizzato. Però questo il Comune di Roma non lo fa, perché il Comune di Roma non si vuole prendere carico dei lavoratori, anzi in tutti i settori li sta scaricando praticamente i lavoratori, no? E quindi sì, noi stiamo organizzando insieme al COBA Scuola questa assemblea che sarà prevista, insomma, per il 13 marzo con data da riconfermare, però stiamo iniziando questo percorso. E se posso anche aggiungere un altro appuntamento che ci sarà, certo, invece domani sera al Quadraro, in dei locali che si trovano a via degli Opimiani 118, la fermata per chi insomma vuole venire è Porta Furba Quadraro, perché da domani sera insomma noi iniziamo proprio questo percorso di discussione, volevamo iniziare questo discorso di discussione con gli operatori che lavorano, con gli AEC che lavorano all'interno delle scuole, per poi unirci per questa assemblea che ci sarà anche col COBA Scuola. Quindi noi invitiamo tutti gli AEC che ci stanno ascoltando, che stanno ascoltando la vostra trasmissione, a venire domani sera dalle 20 a via degli Opimiani 118. Benissimo, noi ti ringraziamo e sicuramente ci risentiremo, insomma, prima dell'assemblea, in modo da ricordare a chi ci ascolta questo appuntamento e anche insomma per cominciare a seguire questo percorso. Sì, sì, certo, guarda, con grande piacere, perché è importante che i lavoratori comincino ad unirsi su queste tematiche. Poi, se potevo aggiungere solo un'altra cosa. Prego. Che non riguarda la scuola, però riguarda l'assistenza al welfare, il welfare di Roma, praticamente la 355, che è la riforma dell'assistenza domiciliare, handicap, anziani e disabili, oramai è stata applicata in tutta Roma, che era la delibera che aveva fatto la giunta Alemanno, che però la giunta Marino ha praticamente applicato, cioè nonostante Marino nella sua campagna elettorale avesse detto che non sarebbero stati toccati i fondi del sociale e che gli utenti avrebbero la stessa assistenza di prima, questo non sta succedendo. Ecco, volevo anche dire a tutti, insomma, dire questa cosa, condividere anche magari con gli operatori che ascoltano la radio questa cosa, che è una cosa veramente importante, insomma, non solo per chi ci lavora, ma anche per chi riceve l'assistenza, per l'utenza. Tutto qua. Noi ti ringraziamo molto per questo intervento e sicuramente ci risentiremo. Va bene, grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Non so se la nostra ospite qui in trasmissione vuole aggiungere qualcosa a quanto abbiamo ascoltato insieme. No, vabbè, mi trovo insomma perfettamente d'accordo, e la situazione è comune, cambiano solo nel nostro caso e nell'altro, diciamo, chi eroga i finanziamenti, ma insomma la situazione è la stessa. Infatti credo che anche questi appuntamenti, insomma, che la compagnia ha dato, sia per assistenti sia per gli istituti, diciamo, di secondo grado che per materne, credo che sia un appuntamento generale, giusto, vero, no? Credo di sì, credo di sì. Sì. Perfetto. Quindi se vogliamo, come dire, tirare le fila del nostro discorso, mi pare di poter dire che il Ministero ha, diciamo, questo obiettivo. Intanto diminuire il numero degli studenti che hanno una disabilità riconosciuta, e quindi già, come dire, abbiamo parlato del dislessici, bisogni educativi speciali, questo carico non è che spariscono i ragazzi e le ragazze, il carico viene spostato, quindi diciamo l'obiettivo è questo, in modo da avere meno ragazze e ragazzi da dover seguire con delle figure precise. Due, insegnanti di sostegno sono pochissimi, stavo vedendo adesso, è uscita pochi giorni fa, siamo al 6 febbraio, del 6 febbraio, quindi ad anno insomma, a metà anno, anzi ci avviamo verso la fine, la circolare che rettifica il numero degli insegnanti di sostegno, i posti vacanti del sostegno. A inizio dell'anno avevamo parlato che si parlava di 3.200 posti a disposizione per il sostegno e soltanto la metà sarebbero stati coperti con un'immissione in ruolo, quindi 1.600. Oggi sostanzialmente si dice che i posti sono 4.417 su tutta Italia, quindi sono certificati 4.400 posti di sostegno in cui non c'è l'insegnante di sostegno di ruolo. E con grossi caos, diciamo, con delle norme che sono contraddittorie, ci sono anche qui delle mobilitazioni e quindi chi è interessato, come dire, può andare a vedere. E poi sfruttare queste figure degli assistenti in questa maniera che oggi abbiamo affrontato, con sottopagandoli, lasciandoli privati e non magari assumendoli come o come dipendenti del comune, della provincia, o come addirittura insegnanti di sostegno, con un risparmio apparente, nel senso che pagati, sottopagati, ma il costo di queste persone sarebbe molto inferiore se fossero assunti regolarmente, come noi sappiamo. Quindi, diciamo, non lo so, commentate voi. Credo che non ci sia bisogno neanche di commentare, anche perché, insomma, come dire, una situazione abbastanza che si ripete, diciamo, anche in vari settori. E a questo punto sono le 16:57, noi stiamo per chiudere. Ringraziamo tantissimo la nostra ospite che ci ha permesso, insomma, di affrontare un argomento molto importante e forse non abbiamo neanche proprio finito. Sì, tantissimo, veramente grazie, perché sei stata molto chiara e ci hai detto cose che noi in qualche caso sapevamo, ma non tutte. Grazie a voi. E l'ora di buco torna martedì prossimo alle 16. Adesso invece i microfoni vanno al martedì autogestito da femministe e lesbiche. Non vi mandiamo la sigla nemmeno oggi, vi mandiamo Carmen Consoli. Sono davvero tanto brava a correre.